Notte sul Dodecaneso. Nel 1940 Antonio, un contadino che la guerra fascista ha trasformato in soldato, sbarca a Rodi. Partendo dalla sua storia, in tre puntate speciali, entreremo in pagine dimenticate del nostro passato. L'occupazione italiana in Egeo, l'8 settembre delle isole e la deportazione della comunità ebraica di Rodi e Kos. Mentre stavo lavorando con la scure contro un grosso ceppo d'abete che non voleva lasciare il bosco, sentii qualcuno chiamarmi dal fondovalle. Il bosco divenne silenzioso e distinsi la voce di mio fratello, che ora è andato in Australia. Gridava: «Vieni giù! Devi venire subito a casa! I carabinieri hanno portato un telegramma dove c'è scritto che devi ritornare ad Aosta. Vieni giù!» Era il 29 agosto del 1939. Quello stesso pomeriggio dovetti lasciare i miei vestiti odorosi di resina per la divisa d'alpino e riprendere il treno. Andava il treno nella notte per la pianura padana. A ogni stazione salivano quelli che, come me, avevano dovuto interrompere la licenza, ma anche tanti richiamati delle classi 1903 e 1913 che andavano a raggiungere i reparti di assegnazione. Non c'era allegria, non c'erano canti, nemmeno conversazioni dentro gli scompartimenti odoranti di naftalina. Ogni tanto qualcuno faceva girare un fiasco di vino e si beveva in silenzio. Ma poi a Verona, a Milano, a Novara, a Chivasso, era un salire e scendere di uomini assonnati e stanchi, di zaini affardellati e rumori di gamelle vuote. Qualche imprecazione, qualche bestemmia, il fischio del capotreno, il segnale di un fanale e via nel buio, verso la guerra. Queste parole sono di Mario Rigoni Stern, che così rievocava il suo viaggio verso il fronte. Io queste parole le ho prese per costruire il racconto di un'altra persona, più o meno sua coetanea, alla quale purtroppo non ho mai avuto né il tempo, né modo, né forse la voglia, diciamo con un po' di rimpianto, di chiedere come fosse andata la sua di guerra. È una persona che più o meno aveva i suoi stessi anni. Si chiamava Antonio Santoni, era nato nel 1919 ed era un fan del genio militare. Era mio nonno. La guerra di Antonio iniziava l'11 febbraio del 1940 e possiamo immaginare che quel giorno lui fosse a rivoltare le zolle nel campo che teneva assieme alla larga famiglia contadina dei Santoni a Mezzadria, oppure a seminare la fava come si usa in febbraio. Qualcuno sarà corso a chiamarlo perché i carabinieri l'avranno cercato. Ci sono pochi dubbi sul fatto che fosse la chiamata alle armi. La visita alla leva era stata giusto l'anno prima. In una famiglia di mezzadri cattolici la politica non aveva mai avuto posto. Una corso verso un'imbrecciata, la frazione di Filottrano, in cui ancora oggi abitano alcuni membri della famiglia dei Santoni, magari un saluto a mia nonna Rosa, con cui era già fidanzato, e poi una camminata verso la piazza del paese per prendere la carriera per la stazione di Ancona, assieme a tutti gli altri filottranesi del 1919. Ci sarà stato poi un viaggio in treno, come quello di Mario Rigoni Stern, perché, stando al suo ruolo matricolare, mio nonno venne indirizzato a Barletta presso il deposito misto Truppa Regio Esercito Egeo per la consegna della divisa e del fucile, e da lì imbarcato nel giro di un mese da Bari per raggiungere la compagnia fototelegrafisti del reparto Genio della 50ª Divisione Regina, distanza sull'isola di Rodi. L'11 marzo, sempre stando al documento che ho trovato nell'archivio di Stato di Ancona, arrivò a Rodi, è da qui che riprendiamo noi. Quando Antonio arrivò sull'isola, Rodi era possidamento italiano del Dodecaneso, una porzione di territorio dell'impero ottomano a poche ore di distanza di nave dalla penisola anatolica, che il Regno d'Italia aveva conquistato nel 1912, esattamente 110 anni fa, come parte di una strategia che aveva visto anche la guerra in Libia e il progetto di attaccare anche Costantinopoli, per mettere in crisi il grande malato d'Europa conquistando l'agognato posto al sole. In questa mezz'ora che passerete insieme a Vallun, il programma di storia di e con Radio Città Fujiko, con Lara, Alessia, Olga, Debs e Frey che oggi è in vostra compagnia, racconteremo una storia un po' dimenticata del nostro colonialismo e quella di un soldato che si è ritrovato lì per fare la guerra. Della guerra a casa mia purtroppo se ne è parlato sempre poco. Probabilmente mio nonno era chiuso, come tanti altri della sua generazione che avevano affrontato esperienze inenarrabili, e quindi probabilmente ha preferito il silenzio e l'incomprensione. Era un argomento, quello della guerra e dei suoi anni di prigionia, che compariva così, quasi in maniera casuale e rituale. Era la bonaria presa in giro durante i pranzi di famiglia. «Santo, non t'abbuffare! Ti è rimasta addosso la fame della Polonia, eh?» Così gli dicevano i suoi figli quando lui si strafogava, arrivando a pescare qualcosa nel piatto dei nipoti. Lui sorrideva, ricordando le kartoffeln che aveva mangiato in prigionia. Io lo guardavo preoccupato, perché mangiava fino a diventare rosso in viso qualche volta. Saranno solamente gli anni e le letture a farmelo capire quell'atteggiamento. Perché leggendo le memorie di chi aveva attraversato gli anni della guerra e soprattutto la prigionia, ho imparato a riconoscere come tratto distintivo di quella generazione proprio il mangiare fino al limite ogni volta che fosse possibile. Perché l'incubo della fame nera non scompare mai, un qualcosa a quello che attorno alla tavola, alla nostra tavola, nessuno aveva mai conosciuto. Poi c'era qualche altro racconto sparso che finché lui era vivo, io, che pure sono storico, non riuscivo a decodificare. 3 anni di guerra e 2 di prigionia in realtà avevano molto da dire, se letti nella maniera giusta. Mio nonno Antonio aveva vissuto 3 anni della sua vita prima di essere fatto prigioniero l'8 settembre ed essere inviato come internato militare italiano in un qualche lager in Polonia. Aveva vissuto a Rodi, finito lì, forse per il suo corso da radiotelegrafista fatto con la gioventù italiana del Littorio, o più probabilmente per quello strano sorteggio che fa l'esercito con le vite dei soldati. Per me era scontato quel pezzo della nostra storia nazionale, ma oggi difatti si parla poco dei possedimenti italiani dell'Egeo, Rodi e le isole del Dodicaneso, rispetto alla storia delle colonie africane, di Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia. Occorrerebbe invece studiarla meglio quella storia lì, perché per anni il Regno d'Italia e poi il fascismo li investirono molto con l'obiettivo di fare la vetrina del successo del colonialismo e della civilizzazione italiana. Terra di Grecia, quindi con il retaggio classico che faceva dei popoli sottomessi non dei selvaggi da colonizzare e basta, ma dei potenziali fratelli, l'Italia doveva dimostrare al mondo quanto in grado di fare con un nuovo territorio, fra l'altro strappato al nemico musulmano di sempre, i turchi. Un rapido viaggio a Rodi, la capitale dei nostri possedimenti nell'Egeo. Poche ma eloquenti cifre testimoniano la radicale trasformazione che l'Italia fascista, apportatrice di civiltà nel segno del Littorio, ha operato nel piccolo borgo levantino, diventato una città attrezzata e suggestiva. Dal 1922 ad oggi la popolazione di Rodi è aumentata di circa 10.000 abitanti. Il movimento dei turisti è salito dai 700 del 1922 ai 60.000 di questi ultimi anni. Mancando la voce diretta di Antonio, quindi ho cercato di provare a colmare alcune lacune. Innanzitutto cercare di vedere quello che poteva aver visto lui, quindi visitare direttamente Rodi, cosa che ho fatto quest'estate con Silvia. E magari provare a vedere se lì ci potesse essere traccia dell'occupazione italiana e magari scoprire qualche ricordo, non lo so, qualche resto di quegli anni di guerra. Rodi però è una meta di vacanza già dagli anni 30 e quindi la sua vocazione di città è tutta caratterizzata dall'essere fruibile dai turisti. Questo in realtà speravo che potesse essere un motore per un piccolo museo, un pannello informativo, ma niente. Sembra che l'occupazione italiana, il fascismo, la guerra non ci siano mai state a Rodi. A livello urbanistico e architettonico, però, con un minimo d'occhio allenato, la presenza dell'Italia fascista si vede e anche molto. C'è il Grande Albergo delle Rose, il Teatro Puccini stile razionalista fascista, tutti i palazzi pubblici che si affacciano sull'asse viario che dal porto va all'Acropoli sono d'epoca fascista. In tanti momenti sembra di essere una città italiana, ma niente. Spiagge, ristoranti e discoteca, antichità classica e medioevo. Questo deve essere Rodi. Chiedere informazioni all'ufficio turistico è un'operazione inutile. Quando abbiamo provato a farlo, chiedendo indicazioni su come ritrovare qualcosa legato alla guerra o all'occupazione italiana, il risultato era l'imbarazzo. Silvia e io eravamo imbarazzati nel poter sembrare dei nostalgici fascisti. Gli operatori turistici erano in imbarazzo perché non capivano il senso di fondo delle nostre domande e poi non sapevano che cosa dirci. Ci siamo per questo messi all'opera noi, partendo da quello che sapevamo per indagare la storia di Rodi, partendo proprio dall'assenza di una storicizzazione di quello che è il motore principale del turismo, ovvero il castello medievale. Rodi, infatti, prima di entrare a far parte dell'impero ottomano, dal 1306 al 1522 è stata la capitale dell'ordine ospedaliero dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, ovvero l'ordine dei monaci guerrieri che qui si installarono dopo la caduta dell'ultima roccaforte cristiana in Palestina, San Giovanni d'Acri, e sono quei cavalieri che poi verranno conosciuti come i Cavalieri di Malta. Quando gli italiani occuparono l'isola nel 1912, iniziarono immediatamente una vasta campagna di scavi archeologici e di restauro, secondo le tecniche e le modalità dell'epoca, che avevano come obiettivo quello di riportare alla luce il passato cattolico dell'isola, per legittimare così il nuovo dominio. Una visita al castello di Rodi, antica sede dei Cavalieri di San Giovanni, signori dell'isola, ridotto in rovina dalle ingiurie del tempo e degli uomini, ricostituito e restaurato dall'Italia fascista in 3 anni. La turrita mole si profila maestosa contro il cielo, mentre nell'interno, restaurate e ricomposte, sopravvivono le strutture cavalleresche della roccaforte. Si trattò di un'operazione brutale che eliminò le tracce di secoli di dominio ottomano e che ha prodotto una città medievale in parte finta. Simbolo di tutto questo è il Palazzo dei Gran Maestri dei Cavalieri, una struttura risalente al XIV secolo, vero? Ma che è stata sostanzialmente ricostruita a partire dal 1937 per volontà del governatore Cesare Maria De Vecchi, quadriunviro della Marcia su Roma, poi entrato in rotta con Mussolini, che voleva un palazzo degno per questo suo esilio dorato del Dodecaneso. È un bel palazzo, quello dei Gran Maestri dell'Ordine dei Cavalieri, sicuramente, ma è un palazzo in cui gli scudi dei Savoia in basso rilievo e il motto della Casa Reale italiana, Fert, presente in ogni stanza, dovrebbero porre il sospetto che non tutto sia medievale, quantomeno, ma nulla. A Rodi, come in tante altre parti della Grecia, manca il passato recente, c'è l'antichità. La Grecia classica è quella dell'ellenismo, al massimo si arriva al mondo bizantino o, come nel caso di Rodi, quello medievale. Ma poi nulla, se non per qualche glorioso esempio di testimonianze e raffigurazioni ottocentesche del processo di indipendenza greca dell'epoca romantica. Il resto nulla. Ma perché ci sono questi buchi? Perché queste lacune? La questione del rapporto con il passato in Grecia non è affatto scontata, anzi, una nazione che ha vissuto all'ombra del mito per eccellenza, l'epoca delle polis, dei grandi miti della classicità, ha poi per secoli vissuto sotto la dominazione straniera e per questo fatica a raccontare la propria storia in un modo non ideologico. Quello che è invalsa è una narrazione ultranazionalista, secondo la quale per secoli la nazione greca è stata sottomessa, ma si è sempre ribellata ad ogni straniero, finendo per essere sconfitta, ma con grande orgoglio. Però mancano tanti aspetti, ovvero la vita vera di quelle migliaia di persone che per secoli hanno vissuto con un dominatore straniero, fossero anche 30 anni come nel caso degli abitanti del Dodecaneso durante l'occupazione italiana. Per cui molto meglio esaltare le polis, che comunque ai turisti piacciono sempre, che capire quali forme di collaborazione e di coesistenza con il nemico siano state messe in campo. Rodi e le isole del Dodecaneso sono passate da una dominazione all'altra, prima ottomana e poi italiana. Passaggi che sono avvenuti senza grossi e significativi moti di ribellione, se non delle proteste occasionali. In fondo poi, con grande stupore mio e di Silvia, tutti i greci con cui parlavamo non facevano che ripetere una faccia, una razza e ricordare quanto fosse stata positiva la presenza italiana sull'isola. Le strade, la modernizzazione, il lavoro. Addirittura i più vecchi sono capaci di ricordare alcune parole italiane che sono entrate nel lessico comune di Rodi. Canottiera, curva, colazione. A sentire quei racconti sembrava che il colonialismo, la guerra e il fascismo non ci fossero effettivamente mai stati. Del resto, fra le poche cose che ho dei racconti di mio nonno, lui di guerra guerreggiata ne aveva fatta poca. I suoi ricordi di Rodi erano di lunghe giornate ad una postazione telefonica, una postazione del telegrafo, in attesa di un nemico che non sembrava arrivare. Dal mio viaggio a Rodi, apparentemente tornavo indietro con l'imbarazzante sensazione che il racconto fatto da Gabriele Salvatoris in Mediterraneo nel 1991 potesse corrispondere alla realtà. Egos, eimi, strategos, italicos. Parla pure italiano. Sono stato 20 anni a Rodi. Ah. Italiani, greci, mia fazza, mia razza. Una faccia, una razza. Una faccia, una razza. Ecco. Ma una faccia, una razza è anche il titolo di un saggio molto interessante edito dal Mulino nel 2003 sulla memoria dell'occupazione italiana realizzata da uno storico australiano di origini rodiote, Nicholas Dumanis, che ha condotto una ricerca di storia orale grazie alle sue origini all'interno della comunità di emigranti del Dodecaneso in Australia. Dumanis, incredibilmente, dall'Australia ci ha risposto e ha risposto ad alcune nostre domande per aiutarci a capire meglio la questione. Professore, gli abitanti di Rodi e di altre isole del Dodecaneso, almeno all'apparenza, sembrano aver mantenuto un'immagine positiva dell'Italia, nonostante i lunghi anni di occupazione coloniale. Com'è possibile? Ci sono delle fratture in questo ricordo, al di là delle prime impressioni positive? Sì, c'era una forte tradizione di nostalgia per gli italiani, per molti abitanti, ma di certo non per tutti. Alcuni hanno dovuto lasciare proprietà a imprenditori italiani e molti di loro hanno dovuto chiudere le proprie attività per via del divieto della raccolta sottomarina delle spugne. In generale, molte degli isolani beneficiarono delle opportunità occupazionali che gli italiani offrivano, soprattutto tra la metà degli anni 20 e gli anni 30. Quando furono avviati dei progetti importanti sulle infrastrutture dell'isola di Rodi. Per esempio la città di Kos fu ricostruita dopo un grande terremoto e sull'Aros fu costruita una grande base militare. Quindi soprattutto in quelle isole c'erano entrate stabili per molte persone che altrimenti non avrebbero avuto guadagni, considerando anche che le persone non avevano modo di uscire dalle isole per via delle regole sull'immigrazione che erano diventati stringenti, per esempio negli Stati Uniti e in Turchia. Un'altra motivazione era che gli italiani sembravano portare l'isola in un mondo moderno. Le costruzioni, le strade, le infrastrutture sembravano di alta qualità e questo era molto apprezzato. Quindi per le persone sembrava che le isole diventassero, come dire, più vicine all'Europa e la transizione di autorità da quella musulmana a quella europea era di per sé vista positivamente e portava le persone a credere che le cose fossero fatte meglio. Soprattutto durante il governo di Mario Lago, che era stato governatore dal 22 al 36, si diceva che lui fosse sempre sorridente. Poi quando arrivarono i greci, gli abitanti non furono particolarmente contenti e quindi il periodo italiano veniva ricordato come una sorta di epoca d'oro. Nell'arco di questa puntata, uno dei fili che abbiamo seguito è quello della storia di Antonio, che da soldato è arrivato nel 1940, quindi all'apice del processo di fascistizzazione delle isole e in una situazione di guerra. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale, secondo lei, hanno prodotto dei cambiamenti nel rapporto fra autorità fasciste, popolazione locale e comunità italiana? La relazione tra lo Stato coloniale italiano e i locali iniziò prima della guerra, nel 1936, con il nuovo governatore Cesare Maria De Vecchi. Fu nominato proprio per cambiare l'attitudine con cui si governavano le isole. Mentre il suo predecessore, Mario Lago, cercò di convincere i locali a diventare italiani, De Vecchi voleva costringerli. Era determinato ad assimilare forzatamente i locali alla cultura italiana. Una delle politiche maggiori, che fu tra le più brutte per gli isolani, era stata quella di togliere il greco dalle scuole. I bambini infatti non potevano più parlare greco e andarono in classi clandestine, che era una reminiscenza del movimento anti-ottomano di decenni prima, questo almeno quello che diceva il mito nazionalistico greco. Questo generale cambio di attitudine da parte di De Vecchi non rispettava la leadership locale e in generale non rispettava gli abitanti. I suoi modi riflettevano un modo tipicamente fascista di gestire l'opposizione o i subordinati. Gli isolani videro in malo modo il suo atteggiamento. Tutti iniziarono a parlare del fatto che il fascismo stava arrivando nelle isole, proprio quando arrivò De Vecchi. Quando la guerra iniziò, gli abitanti non fecero particolare attenzione alla natura del governo italiano. De Vecchi smise di essere governatore e il nuovo sembrava avere un approccio diverso. Molte persone però furono più attente alla sopravvivenza, soprattutto nelle isole con poca area coltivabile, e anche i soldati italiani comunque erano preoccupati di sopravvivere. Passare ad una situazione di pace, ad una di conflitto, con un aumento enorme della presenza di soldati italiani, immagino che abbia prodotto dei cambiamenti. La presenza dell'esercito, i cui effettivi, con lo scoppio del conflitto mondiale, erano aumentati, come venne vissuta dalla popolazione del Dodecaneso? The larger military presence on the islands did not make a huge impression. La maggiore presenza militare italiana nell'isola non faceva una grande impressione sugli isolani, al contrario della prospettiva della fame. Soprattutto, come avevamo detto, nelle isole con poca area coltivabile si affrontava il problema della fame ed era una questione di sopravvivenza. Questo si può dire per tutte le isole dominate dagli italiani, incluse le Cicladi nel centro dell'Egeo. Diversamente però nel Dodecaneso gli abitanti potevano vedere le coste turche e infatti molti di loro avrebbero attraversato clandestinamente il mare per ripararsi nei campi di accoglienza inglesi. La seconda cosa di cui si preoccupavano era l'armistizio e l'arrivo dei tedeschi. Nel 1943, infatti, con l'armistizio il regime cambia e i tedeschi prendono il posto degli italiani. Loro, diversamente dagli italiani, erano visti come crudeli e questo si percepiva dal massacro di italiani, ma anche da quello degli ebrei, di cui tutti sapevano. Il modo in cui governavano i tedeschi non permetteva alcun tipo di opposizione. Si sapeva che fossero crudeli e quel terrore fece in modo che il periodo italiano sembrasse migliore, ovviamente in contrasto con il periodo nazista. Ovviamente la guerra non dobbiamo dimenticarlo. Una parte che nei racconti di mio nonno Antonio, lo dicevamo, sembrava quasi non esserci. Ed effettivamente fino al 1943 il conflitto più grande della storia ce lo si poteva quasi dimenticare sull'isola di Rodi, visto che gli alleati non riuscivano a penetrare così lontano dall'Egitto e i teatri caldi erano altrove. Ma la guerra è arrivata, paradossalmente, ma neanche troppo, se ricordiamo altri luoghi della Grecia come Cefalonia, quando l'Italia firmò l'armistizio. Le truppe italiane di stanza in Grecia, in particolare sulle isole, dopo l'iniziale irrefrenabile gioia dell'idea di veder finire una guerra che avevano imparato ad odiare, si ritrovarono letteralmente spalle al muro, non avendo alcuna via di fuga l'8 settembre. La guerra a Rodi arrivò a poca distanza di tempo dall'armistizio, quando iniziò la conquista tedesca dell'isola. Una pagina vergognosa la cui storia è stata raccontata anche da Alessandro Natta, l'ultimo segretario del PC prima di Occhetto, che a Rodi fu ufficiale. Al suo L'altra resistenza, dedicato all'odissea degli internati militari italiani, un libro del 97 di Einaudi facilmente reperibile in rete peraltro, mi sono rivolto perché anche lui, come mio nonno Antonio, è stato fatto prigioniero il 10 settembre sull'isola e successivamente è stato deportato, esattamente come mio nonno. Natta racconta nelle pagine iniziali di L'altra resistenza della vergogna di cui si sono coperti i gruppi di comando italiani dell'isola, che hanno permesso al comandante tedesco Kliman, che guidava 6.000 soldati, di farne prigionieri 40.000 avviandoli a deportazione. Notte sul Dodecaneso è uno speciale in 3 puntate di Van Loon, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujiko. Il biennio 43-45 dei possedimenti italiani in Egeo attraverso la storia di Antonio, telegrafista della divisione Regina, e della deportazione degli ebrei del Dodecaneso. Puoi seguire il programma radio Van Loon la domenica mattina alle ore 11 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko o ritrovarlo sul nostro canale Telegram Radio Van Loon o sul nostro sito www.radiovanloon.info. Notte sul Dodecaneso, insieme agli altri speciali in podcast, è disponibile anche sulle principali piattaforme audio.